satanismo che da noi prende tinte carducciane quando è intinto nella penna del nostro poeta Stecchetti, in una celeberrima poesia, Il canto dell'odio, che si diceva addirittura dedicata alla regina Margherita. Quando tu dormirai dimenticata sotto la terra grassa e la croce di Dio sarà piantata ritta sulla tua cassa, quando ti colerà marce le gote entro i denti malfermi e nelle occhiaie tue fetenti e vuote brulicheranno i vermi, per te quel sonno che per altri è pace sarà strazio novello, un rimorso verrà freddo, tenace, a morderti il cervello, un rimorso acutissimo ed atroce verrà nella tua fossa a dispetto di Dio, io della tua croce a rosicchiarti l'ossa, io sarò quel rimorso, io ti cercando entro la notte cupa, la mia che fugge il dì, verrò latrando come latra una lupa, io con quest'ugne scaverò la terra per te fatale e il turpe legno schioderò che serra la tua carogna infame, oh, come nel tuo cuore ancor vermiglio sazierò l'odio antico, oh, con che gioia affonderò l'artiglio nel tuo ventre impudico, sul tuo putrido ventre accoccolato, io poserò in eterno spettro della vendetta e del peccato, spavento dell'inferno, e dall'orecchio tuo, che fossi bello, sussurrerò implacato, detti che bruceranno il tuo cervello come un ferro infuocato, quando tu mi dirai perché mi mordi e di velen mi imbevi, io ti risponderò, non ti ricordi che bei capelli avevi, non ti ricordi dei capelli biondi che ti coprian le spalle, degli occhi nerissimi, profondi, pieni di fiamme gialle, e delle audacia del tuo busto, e della opulenza dell'anca, non ti ricordi più com'eri bella, provocatrice e bianca? Ma non sei dunque tu che nudo il petto agli occhi altrui porgesti e spumante liscisca entro al tuo letto passar la via facesti? Ma non sei tu che a liebre dei soldati spalancasti le braccia, che discendesti a baci innominati e a me ridesti in faccia? Ed io t'amavo, ed io ti son caduto pregando innanzi, e vedi quando tu mi guardavi, oh, avrei voluto morir sotto i tuoi piedi, perché negare a me che pur t'amavo uno sguardo gentile, quando per te mi sarei fatto schiavo, mi sarei fatto vile, perché m'hai detto no? Quando carponi misericordia chiesi, e nella strada intanto i tuoi lenoni aspettavano gli inglesi, hai riso? Senti, dal sepolcro cavo questa tua rea carogna, nuda la carne tua che tanto amavo, l'inchiodo sulla gogna e son la gogna, i versi ovvio ti danno al vituperio eterno, pene che rimpiangerti faranno le pene dell'inferno, qui rimorirti faccio maledetta piano, a colpi di spillo, e la vergogna tua, la mia vendetta, tra gli occhi ti sigillo.